la notte a mezzo aprì e azzurro le ciel, la luna è senza me. E azzurro il ciel, la luna è senza me. Tutte languor, pace, mistero, amor, ben mio perché ancor non vieni a me. Già forman l'aure d'amore accenti, del rio nel murmure sospiri se. Ancor non vieni a me, perché ancor non vieni a me, poi quando sarò morto piangerai, ma richiamarmi in vita non potrai. Ma richiamarmi in vita non potrai.